un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, naturalmente buon anno, siamo dunque in un nuovo anno, segno che il tempo passa e che continuiamo tutti insieme a costruire un nuovo futuro. Guardando a ritroso negli anni passati, anzi nei secoli passati, che cosa abbiamo ottenuto? Quali sono i risultati ai quali siamo arrivati? E tenta una risposta uno storico inglese, Jan Mortimer, che ha condotto uno studio singolare affascinante nel libro Il libro dei secoli, mille anni di storie e innovazioni, pubblicato da Bollati Boringhieri, 488 pagine, 26 euro, tradotto da Sabrina Placidi. Una sera nel 1999 l'autore ascolta alla televisione una presentatrice, la quale sostiene che il Novecento è stato il secolo di maggiori cambiamenti. L'affermazione, la sicumera con la quale viene fatta, non convince lo storico e lo fa riflettere, partendo dal sospetto che in realtà i cambiamenti ci siano sempre stati e che spesso abbiano sconvolto la storia dell'umanità non meno che quelli avvenuti nel Novecento. Mortimer comincia a riflettere sul tema, sulla difficoltà di definire il cambiamento, che intesa come differenza degli standard di vita è più difficile da misurare dell'amore, come scrive lui stesso, e il frutto dei suoi studi è condensato in questo libro, ripartito in 10 capitoli, ciascuno dedicato a un secolo, dall'undicesimo al ventesimo, con una conclusione che ci proietta verso il futuro. Sentiremo adesso che cosa ci dice l'autore, ma voglio elencarvi 10 personaggi che sono stati, ciascuno per il proprio secolo, i maggiori artefici del cambiamento secondo appunto lo storico britannico. E troviamo tra questi 10 personaggi un folto numero di italiani, ben 4 su 10, e sono Papa Gregorio VII, Pietro Abelardo, Papa Innocenzo III, Re Edoardo III d'Inghilterra, Cristoforo Colombo, Martin Lutero, Galileo Galilei, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx e Adolf Hitler. Alcuni di questi nomi potranno anche sorprendere, per esempio Gregorio VII viene scelto perché egli trasformò il Papa nell'unica e suprema voce della cristianità, elevando lo status del clero al di sopra di quello di chi combatteva e di chi lavorava, permettendo in tal modo l'accesso all'istruzione e al dibattito secondo i quali la società europea non si sarebbe evoluta come invece ha fatto. Questo ovviamente era un'evoluzione, questo ovviamente era una citazione di Mortimer. E perché Hitler? Ma perché comunque a lui va la responsabilità dello scoppio della seconda guerra mondiale, ci spiega lo storico, e poiché c'è sempre un aspetto positivo in tutte le cose, dalla guerra che Hitler aveva iniziato derivò un numero esorbitante di progressi medici e tecnologici che ebbero positive ripercussioni nella seconda metà del secolo, dall'esplorazione dello spazio alla penicillina. Sicuramente, conclude Mortimer, il mondo ci sarebbe un posto molto diverso se Hitler non fosse mai esistito. Mortimer spiega anche i criteri: questi personaggi hanno cambiato il corso della storia, hanno influenzato i comportamenti della gente. Per questo, per esempio, in questo elenco c'è Rousseau e non c'è Kant. Infatti, lo storico spiega che i parigini insorti nel 1789 non misero a ferro e fuoco la Bastiglia, spinti dalla pretesa che i nobili obbedissero all'imperativo categorico di Kant, ma perché loro lì si ispiravano al contratto sociale di Rousseau. Ma adesso sentiamo l'autore. Buonasera a Jan Mortimer. Hello. Lei sostiene alla fine del suo libro che il XX secolo è stato quello che, in base alle cifre, alle percentuali, alle statistiche, si può considerare il più ricco in cambiamenti. Ma all'inizio del suo studio, viceversa, lei aveva confessato l'impressione che i secoli che hanno visto le maggiori trasformazioni sono stati il XVI e il XIX secolo. Allora, come spiega questo contrasto fra le sue impressioni e la realtà? Questa è una buona domanda. La maggior parte delle persone ha l'impressione che il XX secolo abbia visto il maggior numero di cambiamenti per via della tecnologia. Io ho avuto un'impressione diversa. Prendendo gli studi di alcuni storici e le loro fonti, ho notato enormi cambiamenti tra l'Europa prima di Colombo e l'Europa 100 anni dopo. Quindi il XVI secolo mi è sembrato un secolo di grandi cambiamenti. Ma quando ho analizzato la questione del cambiamento per scrivere questo libro, ho capito che ogni secolo ha vissuto grandi cambiamenti, anche se ci lasciamo sopraffare più dalle nostre impressioni. Ad esempio, il XIX secolo sembra aver prodotto enormi cambiamenti per via delle ferrovie, ma in realtà ci sono davvero così tanti fattori da tenere a mente che si può dire che praticamente ogni secolo ha visto grandi cambiamenti. E infatti lei sostiene che i cambiamenti non dipendono esclusivamente dalla tecnologia. No, per niente. Non dipende solo dalla tecnologia. Se si pensa alle riforme nell'Europa del XVI secolo, questo cambiamento non ha nulla a che fare con la tecnologia. Al massimo può avere a che fare con il fatto di stampare la Bibbia nelle parlate locali, ma in genere non riguardava la tecnologia, ma il potere. Allo stesso modo, la peste nera, l'epidemia del XIV secolo, anche questa non ha avuto niente a che fare con la tecnologia. Quindi si può dire che enormi cambiamenti possono accadere senza alcun impulso tecnologico. Lei sottolinea l'importanza dell'energia e del petrolio per capire le ragioni del cambiamento nell'ultimo secolo. Che cosa può significare questo per il nostro futuro? Noi abbiamo bisogno di più energia o di energia differente? Avremo bisogno di forme di energia diverse. Questa è la mia risposta alla sua domanda. Ma credo che il tema non sia tanto la specifica necessità di energia, quanto chiedersi cosa accade quando ci sono troppe persone. La storia ce lo può dire piuttosto chiaramente che cosa accade quando ci sono troppi individui. E la cosa principale che accade è che si vengono a creare ampie gerarchie di benessere e povertà. Quindi si ha un prolungamento della scala sociale della ricchezza dalla povertà. Quindi la popolazione continua a crescere e crescere, ma arriverà a un punto in cui non potrà più crescere. Ed è allora che la povertà inizierà a farsi spazio, perché le persone nascono quando non hanno accesso alle risorse. Quindi, se vogliamo curare o occuparci della nostra popolazione, abbiamo assolutamente bisogno di mantenere un certo controllo, prima di arrivare al punto di non avere energia a sufficienza per il sostentamento di tutti, per trasportare il cibo, per nutrire le persone e per coltivare il cibo per tutti. Lei ricorda lo studioso francese Thomas Piketty e i suoi studi sull'ineguaglianza. Lei condivide la sua visione sul crescere di questo fenomeno e sull'importanza che questo può avere? Credo che abbia ragione. Credo che molte parti del suo libro siano assolutamente corrette. Le sue soluzioni però sono inattuabili. Lui non ha una soluzione. Ma analizzando perché la società si allunga e diventa più gerarchica, credo che abbia assolutamente ragione. Ha fatto un ottimo lavoro, con basi solide. È preoccupante quando si guarda al futuro. Ma d'altra parte si può guardare indietro al XVII secolo, un periodo di grande miseria in Europa, di grande depravazione negli anni 90 del secolo in Scandinavia, Scozia, Francia. Il 10% della popolazione francese morì di fame nel giro di 5 o 6 anni, 2 milioni di persone. E comunque questo è stato un periodo di grande ricchezza, grandi conquiste artistiche, grandi divertimenti e svaghi per alcuni ceti sociali. Quindi l'esperienza umana non sarà sempre la stessa. E ho la sensazione che avvenga un po' come nel libro di Thomas Piketty. Mano a mano che la società diventa più dura per alcuni, automaticamente diventa migliore per altri. E c'è una sorta di somma netta di piacere umano che viene tolto ad alcuni per essere dato ad altri, dal momento che la popolazione cresce e la povertà aumenta. Lei insiste anche sui rischi che nel prossimo futuro correrà la democrazia liberale. Quali sono, a suo avviso, i maggiori di questi rischi? Il rischio principale credo che sia come finiremo per perdere la realtà della democrazia. Si potrebbe dire che questo sta già succedendo, visto che i più ricchi vincono le elezioni. In America, per esempio, non si può inserire nulla in un'agenda politica se non sei nessuno politicamente o non sei ricco. Servono ricchezza, potere e contatti per smuovere le cose in quelle forme di democrazia. E credo che questo fenomeno stia crescendo anche in Europa. Se l'Europa si ritrovasse con troppe poche persone che vivono in condizioni molto più disparate e non ci fossero persone preparate a combattere per i principi democratici, credo che la democrazia sia davvero messa a rischio. Se noi continuiamo a permettere alla popolazione di crescere senza pensare alle conseguenze nel lungo periodo di questo fenomeno. Nel suo libro lei dice di non credere in Dio, eppure aggiunge che Dio è stato il maggiore fattore di cambiamento. Anzi, lei dice anche che l'importanza della religione crescerà. Può spiegare le sue motivazioni? Sì, quello che io credo personalmente non ha alcuna rilevanza su come le società reagiscono alle proprie credenze e su come la percezione che le persone hanno dell'influenza di Dio li condizioni. Ci credo io personalmente, ma questo non conta. Ciò che conta è che le persone hanno sempre guardato ad obiettivi più grandi, grandi influenze al di fuori delle loro vite specifiche, e Dio è il miglior modo per spiegarle. Dio è un'entità che ha influenzato il modo di pensare delle persone sin dall'inizio del mio libro, e ovviamente anche da molto prima. Guardando il Medioevo, per esempio, molte persone avrebbero felicemente dato la loro vita per perseguire ciò che credevano fosse il volere di Dio. E lo stesso avvenne con la Riforma e la Controriforma, e ancora oggi la gente lo fa. Dio è una forza superiore, non solo sulla vita individuale delle persone, ma anche su come pensiamo che tutta la società dovrebbe operare. E io non vedo come questo sia cambiato nel corso del tempo. Now, I don't see that ever change. Alla fine del suo studio, qual è stato il secolo che l'ha sorpresa di più? L'undicesimo secolo mi ha colpito di più, perché io non credevo che fosse successo molto in questo periodo. Se vivi in Inghilterra, sei ossessionato dall'invasione normanna in Inghilterra del 1066, bisogna ricordare che in Italia anche i siciliani ebbero la loro invasione normanna nel corso dell'undicesimo secolo. Io non ci avevo mai pensato attentamente, ma poi ho cominciato a leggere sul declino della violenza nel corso dell'undicesimo secolo, la fine delle ondate di espansione vichinga, la fine della schiavitù, o meglio, l'inizio della fine della schiavitù nel mondo occidentale. Ho iniziato a leggere di architettura e davvero l'undicesimo secolo è stato quello che mi ha sorpreso di più. Così tanti cambiamenti dati per scontati e dappertutto questa enorme espansione della popolazione, grazie al riscaldamento globale, che ha permesso a più persone di sopravvivere e a più persone di specializzarsi in attività intellettuali. Quindi sono stato molto sorpreso dall'undicesimo secolo. Grazie a Ian Mortimer, autore de Il libro dei secoli. My pleasure, thank you. Una riflessione su alcune tendenze dello sviluppo storico in Europa, quelle che hanno contribuito a forgiare l'identità dell'uomo occidentale moderno, troviamo nel libro di un grande storico italiano, Paolo Prodi. Il suo libro si intitola Homo Europeus, è pubblicato al Mulino, 238 pagine, 22 euro. Prodi parte da una doppia malinconica constatazione. La prima, che nella crisi attuale possiamo percepire che non è in gioco soltanto la democrazia, scrive, non sono in gioco soltanto le strutture dello Stato di diritto, ma la nostra stessa identità in quanto uomini europei. La seconda, che la storia non serve più al potere come nelle epoche precedenti. E questo è anche il frutto di alcune tendenze che contribuiscono a distorcere il lavoro degli studiosi, che dovrebbero invece poter essere liberi di fare sempre nuove scoperte, magari scomode. Così, dice Prodi, il politically correct può diventare uno strumento fondamentale di conservazione. Dobbiamo vedere, aggiunge nel politically correct, uno dei pericoli fondamentali di questo distorto uso pubblico della storiografia. E un esempio di dibattito strumentalizzato è quello, secondo Prodi, sulle radici dell'Europa, un dibattito che allo storico interessa poco, perché in realtà egli in questo libro vuole allontanarsi dal punto di vista appunto delle radici per porre al centro l'analisi dei processi che hanno reso l'Europa il primo laboratorio della modernità. In questo senso, aggiunge, la radice della civiltà europea sta nell'affermazione della laicità come dualismo tra la sfera del sacro e quella del potere. Queste sono riflessioni contenute nella ricca introduzione, dove troviamo l'intreccio tra religione, Stato, mercato, che ha appunto forgiato la modernità europea. Prodi diffida del progresso come ideologia unificante della modernità. Serve piuttosto uno studio di lungo periodo che ci dia gli elementi per comprendere il senso della crisi attuale, che secondo Prodi sta nella crisi del monopolio instaurato da parte dello Stato-Nazione. Monopolio, spiega, non soltanto del potere legittimo, ma anche della formazione, della cultura, fino alla religione della patria. Interrompiamo per un attimo, ci sentiamo tra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Restiamo dalle parti delle isole britanniche, andiamo a nord, in Irlanda, con uno dei massimi scrittori di lingua inglese, Jonathan Swift, l'inventore di Gulliver, che a Londra avrebbe trovato fortuna, sarebbe diventato uno dei protagonisti della vita culturale e sociale, salvo poi tornare per una delusione di carriera, ambiva a diventare vescovo. Un incidente di carriera dovuto in realtà alla forza delle sue polemiche e alla corrosività delle sue satire, Swift torna in Irlanda. Uno degli esempi più celebrati di questa sua carica polemica è il libro Una modesta proposta, ma il titolo in realtà completo è Per evitare che i figli degli irlandesi indigenti siano di peso ai genitori o al paese, facendone un beneficio per tutti. Questa edizione è curata da Luciana Pire. Ha il testo a fronte, pubblicato da Marsilio, 82 pagine, 10 euro. La modesta proposta, che venne scritta in età tardi, nel 1729, come noto, è semplicemente quella di vendere i figli dei poveri come se fossero dei tacchini, proprio per alimentare le mense dei ricchi. Una proposta estrema e assai poco politicamente corretta, scritta per l'appunto con l'intenzione di accendere l'attenzione sulle condizioni intollerabili dei poveri irlandesi che venivano sfruttati dai governanti inglesi. E questo non fu l'unico scritto anti-inglese che Swift scrisse nel suo ultimo periodo dopo il ritorno a Dublino. Come scrive la curatrice, qui Swift ha rincarato la dose, con lucida precisione documentaria ha enumerato una per una tutte le cause che hanno portato gran parte della popolazione a vivere ai limiti della sopravvivenza e spesso al di sotto di quei limiti. E dunque la paradossale proposta dello scrittore è dovuta, come scrive egli stesso, al fatto che sia opinione diffusa che nelle ormai deplorevoli condizioni del regno sia un ulteriore grave motivo di lamentele l'impressionante quantità di bambini in braccio o sulle spalle o alle calcagna delle madri e spesso anche dei padri, e pertanto a chiunque sia capace di escogitare un sistema equo, economico e facile che faccia di questi bambini membri validi e utili della comunità spetterebbe tanta pubblica riconoscenza quale salvatore della patria da meritare una statua. E quindi, spiega la Pire, soltanto l'eccesso di una proposta disumana può tradurre l'eccesso di disumanità della logica del profitto. È disumano in Swift il piglio freddo e deciso dell'utilitarista che pesa, calcola, compila lista, segna le entrate e le uscite come il più meticoloso commerciante. Niente remore morali, la questione asserisce e non lo affligge più di tanto. E questo di Swift in realtà è un libello di poche pagine, una dozzina, che ebbe però un impatto enorme nel tempo sia in Inghilterra che in Irlanda, dove Swift fu acclamato definitivamente come un grande patriota. E a proposito di antropofagia, qui abbiamo parlato di bambinofagia, un dotto e curioso libro è quello di Angelica Montanari, Il fiero pasto, antropofagia medievale, pubblicato dal Mulino, 238 pagine, 22 euro. Il fiero pasto è quello proverbiale, ricorderete, di Ugolino della Gherardesca, immortalato da Dante Alighieri. Ma quello non è l'unico riferimento letterario del Medioevo all'antropofagia, una pratica molto più diffusa di quanto sospettiamo, forse perché l'abbiamo completamente rimossa. Scrive infatti l'autrice, i cannibali del Medioevo non sono soltanto gli orchi e le figure malefiche delle fiabe, sono anche buoni cristiani, sono cavalieri e re, giovani donzelle, cittadini ammalati, il viandante, l'eremita, il pargolo, il guerriero, tutte potenziali vittime, tutti potenziali carnefici. E allora si domanda, era davvero professato il cannibalismo nel Medioevo o si tratta solo di narrazioni fantastiche? Ebbene sì, anche i nostri antenati furono spinti in alcune circostanze a mangiare carne umana, sebbene l'antropofagia non fosse praticata, fortunatamente aggiungiamo noi, in maniera diffusa e sistematica. E il libro traccia la storia di questa pratica, di questo tabù, uno dei pochi che ancora la società odierna custodisce gelosamente, aggiunge la Montanari, e di quello che è stato l'impatto sulla cultura del tempo. Torniamo nelle isole britanniche, qualche anno prima di Swift, con un altro grande classico della letteratura inglese riproposto da Adelphi, Vite brevi di uomini eminenti, di John Aubrey, che fu scrittore, fisico naturalista, antiquario e pittore, vissuto tra il 1626 e il 1697. Il libro di 290 pagine, 12 euro, ed è curato da Oliver Lawson Dick, e lo troviamo nella classica traduzione di Rodolfo Wilcock. Questo è un grande esercizio letterario, un personaggio svagato e stravagante come fu Aubrey, e che, come scrive Wilcock, ci dà delle biografie interamente false. Ma, aggiunge Wilcock, le vite, nel senso classico di raccolta di pettegolezzi persino improbabili, costituiscono sempre un insieme coerente, non già come l'autore vede una data persona, bensì come questa persona è stata vista da tutti. Questa, l'opinione del mondo, è quel che il mondo intende per vita di una persona. Altra vita per il mondo non c'è. Vite fatte di momenti isolati e talvolta unici. Così fu per quelli che lo conobbero. E per chi altro poteva essere? E infatti troviamo nel libro, dedicati spesso a personaggi che per noi sono del tutto sconosciuti, dei particolari del tutto curiosi, apparentemente inutili. Oppure sentite nella biografia non più lunga di una pagina e mezza dedicata a Shakespeare, come l'autore descrive Shakespeare. Mr. William Shakespeare era nato a Stratford-sul-Avon nella contea di Warwick. Suo padre era un macellaio e mi hanno raccontato tempo fa alcuni suoi vicini di casa che da ragazzo egli abbia fatto il mestiere del padre, ma che ogni volta che uccideva un vitello lo faceva in stile grandioso e pronunciava un discorso. C'era in quegli anni un altro figlio di macellaio in quella città che si diceva non gli stesse dietro quanto ingegno naturale, coetaneo amico suo, ma quest'altro morì giovane. E poi in questa biografia, bontà sua, Aubrey riconosce che le commedie di Shakespeare rimarranno ingegnose finché la lingua inglese è capita, perché gli tratta mores hominum. Adesso i nostri scrittori di oggi si occupano tanto di personaggi peculiari di stramberia alla moda che tra 20 anni nessuno li capirà più. E in questo forse Aubrey è stato facile profeta. Due istituzioni inglesi, una letteraria e una sociale, troviamo nel libro di Gilbert Keith Chesterton, Radio Chesterton, dai microfoni della BBC. È pubblicato da Rubettino, 156 pagine, 12 euro, ed è tradotto da Annalisa Teggi. Chesterton, come ricorderete, il grande scrittore cattolico che morì nel 1936, creatore di Padre Brown, quando a un certo punto fu chiamato dalla BBC per tenere le trasmissioni non regolari tra l'autunno del 32 e la primavera del 36, e anzi la sua morte interruppe queste trasmissioni. E qui troviamo i testi di queste conversazioni e il dibattito con gli ascoltatori al quale esse diedero vita. Questi temi gli erano stati commissionati, all'inizio gli erano stati commissionate delle recensioni di libri, ma Chesterton si rifiuta o si ribella, chiede e ottiene dalla BBC di parlare di temi più generali. Infatti qui parla di carità, di lavoro, di figli, di libertà, e anzi questo dedicato alla libertà è di gran lunga il capitolo più corposo, in cui lo scrittore sostiene che il sistema delle libertà inglesi è il frutto in realtà del cattolicesimo inglese e che, aggiunge, quella libertà si è conservata esattamente fino a quando tale fede si è mantenuta e che laddove la nostra fede è interamente scomparsa, anche tutta la nostra libertà sta scomparendo. Insomma, spiega nell'introduzione Marco Sermarini, Chesterton sosteneva che le nazioni protestanti sono meno libere di quelle cattoliche. La tesi di fondo era che il cattolicesimo induce a rispettare e a desiderare la libertà stessa perché crede nel libero arbitrio. Questa tesi naturalmente sollevò un sacco di polemiche alle quali parteciparono tanti personaggi. Troviamo anche un italiano, Angelo Crespi, che poi si sarebbe naturalizzato inglese, che critica Chesterton chiedendosi retoricamente se in merito alla libertà cattolica Don Minzoni, che è stato ucciso dalle squadre fasciste, o Don Sturzo, che è stato esiliato in Inghilterra, avrebbero le stesse idee del signor Chesterton. E qui naturalmente l'ascoltatore italiano difende il sistema delle libertà inglesi. Un altro incontro molto interessante è un dibattito con Bertrand Russell, il grande filosofo, che sosteneva che i figli dovessero essere strappati alle famiglie perché i genitori, disse in questa conversazione del 35, sono inadatti per natura a crescere i loro figli. E non sostengo, aggiungeva, che esista qualcun altro che per natura sia adatto a ciò. Affermo, concludeva Russell, che la cosa importante è che i bambini, per quel che concerne l'istruzione, la salute fisica e cure affini, debbano essere affidati a quelli che possiedono una conoscenza specifica di cui c'è bisogno affinché tutto ciò sia svolto al meglio. E naturalmente Chesterton gli salta addosso, lo critica e si chiede quali sarebbero le altre persone che dovrebbero prendersi cura dei bambini. Se tutti i bambini dovessero essere lasciati nelle mani di dottori, scienza, medicina, sociologia, asili e così via, Dio le aiuti. noi andremo a pagare un certo numero di impiegati che fingeranno di avere quel genere di interesse verso i bambini che di fatto è per qualche misteriosa misericordia di Dio cum natura voi e io abbiamo sperimentato nel rapporto con i nostri genitori per legge naturale. Abbiamo parlato di una capitale, anche di cibo, anche se un po' controverso, e allora passiamo a un'altra grande capitale, a un dolce che suscita solo entusiasmo. Vi segnalo il libro di Monika Czernin, che è una studiosa, scrittrice e giornalista austriaca, intitolato Hotel Sacher, l'ultima festa della vecchia Europa, pubblicato da EDT, 316 pagine, 24 euro, tradotto da Mario Izzi. Questa è una biografia di uno dei luoghi mitici della Mitteleuropa, l'albergo Sacher, il cui mito fu costruito da una donna, Anna Sacher, che aveva ereditato l'albergo alla morte del marito nel 1892, ne avrebbe fatto uno dei centri nevralgici di una delle città più moderne e innovative dell'Occidente, come a quell'epoca era Vienna, che l'avrebbe guidato fin quasi alla sua morte nel 1930, poco prima della morte. Anzi, pare che la morte fu dovuta anche alla disperazione per questa decisione. La proprietaria in realtà era stata interdetta per i debiti che aveva contratto per ammodernare e rendere sempre più attrattivo il suo albergo. E quindi il libro è scandito per anni, dal 1892 al 1929, quando appunto Anna esce di scena. E troviamo qui la storia di un albergo, ma soprattutto di una città e di un regime la cui caduta segnò la storia d'Europa. E infatti incontriamo tra gli altri personaggi come il principe Rodolfo, Arthur Schnitzler, Gustav Klimt, Gustav Mahler e tanti altri. A proposito della fine dell'albergo, quando la Sacher venne interdetta, si avviò un contenzioso legale sulla licenza per la produzione della torta che tutti conosciamo, un contenzioso legale che si sarebbe trascinato dal 1938 fino al 1962. Uno dei protagonisti di quella Vienna vivacissima fu Sigmund Freud, che troviamo in un libro fumetti di Meridiano Zero, Freud e la scoperta dell'inconscio, con i testi di Domenico Tarizzo, che è un esperto di questioni psicoanalitiche, e le illustrazioni di Massimo Mariani, 148 pagine, 16 euro. Come spiega l'autore, Freud compie un movimento contro la morte in favore di Eros, non lo si ringrazierà mai abbastanza. E questo libro, spiega nell'introduzione, narra l'avventura freudiana fino alla scoperta dell'inconscio, la parte più seria, cioè di un pensiero e di un'opera che con il passare degli anni finiscono per rinchiudersi nella frigida narcisistica contemplazione della propria presunta perfetta simmetria, per cui tutta la vicenda umana doveva ripetere il vissuto primario infantile e ogni consorzio umano ripete rigidamente, meccanicamente, le vicissitudini dei modelli intrafamiliari. E conclude il libro un utile dizionarietto dei termini fondamentali della psicoanalisi. Di Freud, tra l'altro, ricordo che è uscita la biografia scritta da un altro cantore di quella Mitteleuropa, cioè Stefan Zweig, nella serie pubblicata da Castelvecchi, 92 pagine, 12,50 euro, la traduzione di Lavinia Mazzucchetti. A questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato all'inizio di storia, allora vi segnalo di Van Pomoe e Christophe Illasommer, Siamo noi la storia, è pubblicato da Babalibri, 94 pagine, 22,50 euro, e tradotto da Anna Morpurgo. Questa è una storia del mondo, dall'universo a oggi, vista però dalla parte della gente comune in tutto il mondo, gente comune che ha contribuito ai grandi cambiamenti, quelli di cui abbiamo parlato all'inizio, che hanno segnato e segnano la storia del pianeta. E soltanto alla fine del libro troveremo un elenco di celebrità importanti che però non devono diventare i protagonisti esclusivi della storia. Ultimi arrivi. Vi segnalo il libro su tre personaggi celebri, un cantante, un attore e un calciatore. Il primo è Jovanotti, il libro si intitola Lorenzo, il cielo sopra gli stadi, di Massimo Poggini, è pubblicato da Mondadori, 260 pagine, 19 euro, ed è questa una sorta di diario dell'estate 2015 e del tour Lorenzo negli stadi. Poi l'attore, che è Gigi Proietti, che ha scritto De Camerino, novello dietro le quinte, pubblicato da Rizzoli, 174 pagine, 17,50 euro, un libro che prende spunto dall'occasione del giubileo, per presentare elementi di racconti, aneddoti, ricordi della propria carriera visti da, appunto, dal proprio camerino. E infine il calciatore George Best, l'immortale, Questo è il titolo del libro di Duncan Hamilton, che è uno scrittore inglese, pubblicato da 66 and Second, 494 pagine, 25 euro, tradotto da Francesca Benocci e Roberto Serrai. E questa è una biografia del grande scrittore, che viene definito una delle figure più importanti degli anni 60 del Novecento. Radicato fino in fondo in quell'epoca, è fondamentale nel plasmarne la cultura, l'umore e l'atmosfera. Un calciatore trattato come un'icona pop e una pin-up, un modello per la moda, un sex symbol carismatico e seducente. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Reggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata, ancora buon anno, e vi do appuntamento domenica prossima.